Saltelli, segna Balotelli, e se Saltelli, segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. Franco Piantarini, autore di questo programma. Capitan Fabio Cantadori in regia. 800240024, perché siete sempre tutti convocati e da lunedì ancora di più. Ma poi ve lo dico, ve lo ricordo, da lunedì da quest'ora fino alle 15:20, e ormai non è più un segreto, è il segreto di Pulcinello, un pulcinellone, Pierluigi Pardo che sarà qui con me. Dunque, l'Inter. Voi vorreste che io parlassi dell'Inter, eh? Rianimato da Mazzarri. Big balls, certamente. Vittoria di Monza sulla Fiorentina, e così si può passare oltre la brezza polemica al momento della sostituzione di Guarin sullo 0-1. Dicono che il nascondino potrebbe essere sport olimpico a titolo dimostrativo, ne abbiamo anche parlato, a Tokyo 2020. Ebbene, abbiamo un candidato italiano, Walter Mazzarri. La Fiorentina, finché stava benissimo, non ci dava la possibilità di ripartire perché ci aggredivano, e poi bisogna stare attenti perché le occasioni comunque che abbiamo concesso alla Fiorentina, se andiamo a vedere, non è quando loro partivano con la manovra da dietro, quando ci hanno rubato 2 palle una volta e mezza al campo, una volta al nostro difensore, ci hanno fatto male. Per me la Fiorentina, che è arrivata quarta e poteva quasi arrivare terza l'anno scorso su quelle basi, ha preso i giocatori che ha preso, secondo me la Fiorentina potrebbe essere una che può, insieme a altre 2 o 3 squadre, ambire allo scudetto. Questa è la mia opinione. Io parlo degli altri, se gli altri parlano di me, io parlo degli altri. Chiaro, no? Vabbè, tanto lo sapete tutti che tanto l'intervista del giorno non è quella di Mazzarri, e dato che io devo guadagnare il mio lauto ingaggio che ho già dichiarato anche all'ufficio delle imposte, eccovi un estratto della semi blindata vera intervista del giorno. Mario Balotelli. Mi dispiace soprattutto per i miei compagni che li ho lasciati, diciamo, da soli. Sono loro che si allenano ogni giorno con me, e dribblano sul campo con me e fanno fatica con me, quindi specialmente e soprattutto a loro. Poi ovviamente ai tifosi che ci tengono e alla società. Per le parole che ho detto all'arbitro mi scuso con l'arbitro perché non dovevo dirle. Mario fa un brutto fallo, deve essere punito Mario, ma un altro fa un brutto fallo su di Mario, deve essere punito quello che ha fatto il fallo su di Mario. Senti anche di dover chiedere scusa per questa specifica situazione che si è creata adesso anche nei confronti del CT? Di Prandelli? Sì, ma ascolta, io ho fatto un errore che mi sono lasciato andare su, diciamo, una provocazione, ok? Su più provocazioni Mario si è lasciato andare. Mario ha sbagliato, Mario chiede scusa. Però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno. Ormai parla in terza persona come Maradona. Ve lo ricordo, da lunedì tutti convocati, diventerà extra large dalle 14 alle 15:20. Pierluigi Pardo ha avuto il coraggio d'ardire, la faccia tosta, di accettare l'invito a chiudersi qui dentro con me, ma d'altra parte cosa vi aspettate da uno che ha scritto un libro con Cassano? Sarebbe meraviglioso se si unisse alla compagnia anche Maurizio Crosetti da Repubblica, non so se però lo lasciano. Ciao Maurizio. Oh, buongiorno, beh, sarebbe molto interessante. Poi con Pierluigi già condividiamo svariati salotti, cioè svariati no, sì, uno solo, il suo divertentissimo tiki-taka, e con te condividiamo ogni tanto queste considerazioni, per cui, per carità, una volta o l'altra vengo a farvi l'improvvisato. Sì, noi ti aspettiamo, poi parlo col direttore napoletano, facciamo anche un contratto, lo dico pubblicamente. Ah, beh, allora Allora l'agenzia delle entrate che è nascosto. D'altra dire, parte, leccarsi le dita. Non so chi è il tuo procuratore, il mio è Raiola. Io prendo 2 milioni. Abbiamo lo stesso procuratore, quindi vedi. Tu andrai via presto da Radio 24, ma io certo. Andrò via presto da Repubblica. Certo, e io andrò via presto da Juve e Balotelli andrà via presto dal mio. Io prendo 2 milioni l'anno per parlare bene di Balotelli. Un ascoltatore me l'ha chiesto. Io invece dico 2 milioni di stupidaggini all'anno. Dicono che Balotelli e Raiola siano i veri padroni del Milan. Dicono che Raiola abbia imposto questa intervista con il collega Carlo Lodisa, che poi tra l'altro sentiamo, soltanto con lui, poi Sky paga un sacco di soldi e quindi vale anche per Sky. Dicono che Raiola abbia imposto, abbia risposto all'invito di vestire Balotelli con la divisa del Milan, abbia risposto no, vai in t-shirt e cappellino. Dicono un sacco di altre cose. E dicevano anche che Balotelli era nella marcia, non l'avrebbero mai preso, insomma sì. Ce ne dicono tante nel calcio, no, in realtà è vera questa, Balotelli è di totale proprietà di Raiola come tutti gli altri di questa sua incredibile scuderia, da Ibra, Cerane, Edved, insomma tutti più bravi lì a, quasi tutti i più bravi lì a lui, e sorprende come una società forte, autorevole, navigata come il Milan si sia fatta dettare tutte le condizioni di questa conferenza stampa, dall'abbigliamento alla selezione, non ha parlato con tutti, ai modi, forse anche al testo, no? Quel mi dispiace ma, ho sbagliato ma, no? Perché il ma non ci vuole, quando dice ho sbagliato il ma, però insomma, al di là delle forme, indubbiamente è così, Raiola è il padrone del calcio italiano, ecco. Potrebbero farlo presidente federale. No, presidente di Lega, abbiamo proposto presidente di Lega. Già, questo vero, già da tempo. Hai ragione, conta di più del presidente federale. Quindi Raiola, ma secondo me lo è già presidente di Lega, perché poi alla fine la Lega fa quello che vogliono le televisioni, i procuratori, certo. Raiola fa fare alle televisioni, i procuratori quello che vuole lui, dunque per la proprietà transitiva Raiola è già presidente di Lega. Una specie di Andreotti, insomma. Beh, più scaltro, poi Andreotti non ha cominciato facendo le pizze ad Harlem, lui sì, quindi tutto sommato ha fatto più gavetta di Andreotti. Ma quanto conta invece Balotelli per il Milan? Per me è una rockstar, cioè Balotelli si comporta da rockstar ed è tale, no? Conta tantissimo, conta, guarda, Napoli-Milan è stata più che una partita, il perfetto riassunto. Bravo. Di Balotelli. Perfetto. Cioè, tutto quello che Balotelli sa, può fare, non fare, non dovrebbe fare ma fa, dovrebbe fare e fa, a parte il rigore sbagliato. Ecco, in questa storia quello è l'unico punto del riassunto che era, non riassumeva nulla perché era una prima volta. Però tutto il resto, se ci pensate, dice chi è Balotelli, e senza Balotelli, come si è visto poi a Bologna, si è visto anche che il Milan è una squadra normale, per carità, orgogliosa, una squadra che sì, vale il settimo posto, l'ottavo. Però dai. Balotelli è tantissimo. Fino a gennaio di quest'anno il Milan era una squadra da sesto posto, ottavo posto, con lui non dico che sia diventato la scudetto, però insomma ci è andata tutto sommato un po' più vicina. Maurizio, ti chiedo un attimo di pazienza e poi dopo il traffico ci facciamo odiare da un altro po' di persone, Fantastico, ho altre due domande per te. Certo, certo. Che stiamo a fare? Tutti convocati. Maurizio Crosetti, più tardi ti mando un'email con i messaggi che stanno arrivando, non posso leggerli per radio perché non sta bene, siamo in fascia protetta. Mao, ci sei? La mia mail, non mi stupirò. Ascolta, io al momento tifo Napoli a Roma perché sono uno curioso e perché come Ibra non mi vergogna a baciare un sacco di magliette, ma l'Inter militaresca di Mazzari scherza poco. La squadra più catenacciata del campionato, pensiero. Secondo me. Beh sì, abbastanza, devo dire abbastanza, però è una squadra che ha messo insieme semplicemente le cose semplici e sembrava impossibile, no? Nel senso che forse non ci voleva tanto, però Mazzarri è tanto, quindi sai, alla fine è riuscito a mettere insieme una squadra che gioca con l'ABC e la A, questo ABC è sicuramente la difesa, anche se la difesa sarebbe la D, vabbè, siamo un po' incasinati, comunque la A di ogni squadra è la difesa. Si vincono i campionati solo con la miglior difesa, spesso anche la Champions si può vincere con la miglior difesa, anche se quello alle volte non basta, ma l'Inter ne potrebbe fregare di meno perché la difesa, la Champions non la gioca per adesso. E quindi sì, Mazzarri può anche sembrare un po' catenacciaro, però adesso l'Inter è un allenatore, senza offesa, per il buon Strama, il Matteo Renzi degli allenatori. Maurizio, per chiudere, tra le tue tante medaglie e le tue tante attestate di merito, una volta fosti cacciato dallo spogliatoio della Juventus, dalle conferenze stampa della Juventus, perché Marcello Lippi non ti voleva. Questa è storia. Boh, sì, una sì. storia... Sì, lo sì, sappiamo. Ma più che lui, poi... E questo è un attestato di merito. Sì, vabbè, lui ha preso quella volta ordini da chi... Mi voleva molto meno di lui, però vabbè, insomma, le persone che hanno dato quegli ordini adesso sono radiate dal calcio, quindi va bene così. Facciamo i nomi, no, non serve. Senti, bastano i cognomi, ma li siamo tutti. Bastano i cognomi. Però io ho pronosticato, vediamo se riusciamo a non entrare più alla Juventus Stadium, che è l'unico posto civile in cui vedere il calcio in Italia. Io ho pronosticato una Juve l'anno prossimo senza Conte e senza Pirlo. Senza Pirlo sì, senza Conte alla fine non credo, anche se indubbiamente tutti questi mal di pancia non sono dovuti al cambio di stagione, alla colite, alle prugne, ma alle ipotesi di mercato, ma più che alle ipotesi di mercato al fatto che Conte sa benissimo quando è arrivato forse ad avere il massimo, sa che le sue squadre dopo 2 o 3 anni è difficile che lo seguano come all'inizio, e poi vorrebbe andare in Inghilterra, vorrebbe andare all'estero, tutte queste cose vanno bene, però alla fine credo che rimarrà a Pirlo, no, è già cominciata l'operazione, scava il fossato attorno al campione. Ti voglio bene, ciao. Beh, anch'io, caspita. A prestissimo, Maurizio Crosetti. 800 24, poi ti mando la mail con gli sms di insulti, Mau. 800 24 00 24, numero verde, siete come sempre tutti convocati per parlare di cosa? Di quel che volete, naturalmente. Giacinto, Ravenna, buongiorno. Ciao gente. Ciao. Allora, niente, volevo parlare un attimo solo di Inter Milan, di Inter Fiorentina, per dire che Banti, quello che ha arbitrato Milan-Napoli, era dietro la porta, c'era stato un unico fallo di rigore e l'ha visto. Nell'altra partita ce n'erano 3, ne ha visto 1. Questa è la cosa che volevo dire, ecco. Oh mio Dio, poi magari, c'è anche un'altra cosa, magari una cosa l'ha vista, una cosa no, può essere, ecco, no. Diciamo che oppure qualcuno non voleva, no, mi lasci dire 2 cose, poi chiudo. Sì, perché... ma dimmi quello che vuoi. Ecco, voglio dire, secondo me non li ha voluti vedere, poi ognuno la pensa come gli pare, dato che il telefono ha tanti telebani, posso fare il telebano anch'io. Certo, no? Ma certo, ma certo. E un'altra cosa, il Milan è sempre col plotone d'esecuzione perennemente schierato e sparano a raffiche. Per una rimessa in gioco a Torino c'è stata una crociata. L'altra sera c'è stata una partita che andando in un modo si perdevano 3 punti, nell'altra se ne sono presi 3, è passato in cavalleria. Non se ne parla per niente, zero. Come zero di Napoli si parla, perché Napoli si ha vinto e il Milan vinceva la partita col Napoli, nel modo che l'ha vinto il Napoli, apriti cielo. Quindi mi sembra che ci sia una perenne scarica di cucinerie. Ma no, Giacinto, a me pare che il Milan sia scarso. Poi... Indubbiamente, okay. Indubbiamente. E allora, però, e allora se quello che deve avere... quello che deve avere... io non... Ovviamente tu puoi fare il talebano finché vuoi e fai bene. Io non la penso come te, nel senso che... Su questa dietrologia arbitrale non mi allineo. Io credo anche che raramente poi lo sport racconti poi tante bugie. Il Milan è una squadra in questo momento abbastanza scarsa e ha la classifica che si merita. Sto dicendo altre cose. Io sto dicendo che i ne fanno di tutti i colori e vengono criticati. L'altra perunia, a Chievo, col Chievo a Verona è successa una cosa, però non se ne parla, è questo che dico io, se ne parla. Cosa è successo? Non mi ricordo più. È successo che vinceva 2-1 il Chievo e gli hanno detto di no. Ah, con la Juventus, tu parli sì, delle... Sì, ah, sto sì, dicendo. Sì, certo, sì, non pensavo... Cioè, voglio dire, ma per un fallo a Torino, per una rimessa in gioco, è stato fatto, un'odissea, una tragedia greca, la rivoluzione araba, tutto è stato fatto. Quello di Verona l'altra sera se ne è parlato la sera stessa e poi più, è questo che dà fastidio. Ma, poi uno anche... per Dio per tutti, No, Giacinto, di la verità, se ne è parlato anche ieri, se ne parla anche oggi, se ne parlerà anche domani e anche fin troppo, così come secondo me fin troppo questa attenzione nei confronti di quello che fanno gli arbitri, però questo è un discorso vecchio come molto più di noi. Ed è un discorso inestirpabile dal calcio italiano. Poi vabbè, moviole, mica moviole, fate come volete. Gianni, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno gente, io nel secondo cosa che voglio dire, voglio aiutare un po' gli altri. Per quanto riguarda la seconda, no, aspetta Gianni, la seconda cosa che vuoi dire, la prima qual era? La prima riguarda Buffon, cioè praticamente Buffon, io 6 anni fa in una trasmissione che lei conduceva la domenica pomeriggio, sì, gli disse che già allora 6 anni fa era alla frutta, adesso siamo arrivati al punto che costruisce reazioni per la squadra avversaria. È una cosa, cioè bisogna lì, io penso che c'è uno, se io ho fatto il dilettante, la prima cosa che si insegna a un ragazzino che sei in porta è quella che se non è nelle condizioni di bloccare il pallone deve spingerlo verso il fondo campo. Qui siamo, mi dispiace per lui, ma stiamo andando verso il ridicolo proprio. Comunque, la seconda cosa invece riguarda proprio quel signore che ha parlato poco fa, che ce l'ha con gli arbitri. Io vorrei aiutare gli arbitri in questa maniera, cioè la televisione ha in mano il calcio, questo si è capito perfettamente. Allora, il replay nella televisione, o il quarto uomo usa il replay come prova effettiva, che è quello che vede, poi modifica, oppure altrimenti il replay non va riproposto finché la gara non è terminata, perché altrimenti condiziona la partita. Ma non va, no, aspetta, fammi capire, non va riproposto in televisione per i telespettatori? Cioè, finché la gara non è terminata, okay, il replay non va riproposto. Ma in TV tu dici? Ma in TV? Le TV, cioè praticamente domenica abbiamo visto un dirigente del Chievo, sì, andare però verso il quarto uomo con tablet a fargli vedere l'immagine, okay, praticamente l'anno scorso. Sì, però Gianni, allora io ti dico, va bene tutto, però ti rendi conto della distorsione? Saremmo l'unico paese al mondo, tutto compreso, a non far vedere il replay di una qualunque azione. E qui sta la distorsione, cioè non dobbiamo far vedere il replay di un'azione ai telespettatori, poi che ormai sappiamo che la televisione entra negli stadi, ormai sappiamo che Zidane venne espulso sulla base di quella per volere del quarto uomo dopo che aveva visto l'immagine, sappiamo un sacco di cose, però saremmo l'unico paese al mondo ad introdurre la censura sul replay a partite in corso. Eh sì, ma se ricorda lei l'anno scorso Stramaccioni quanto la Juventus ha segnato a Torino con Asamoah che era in fuorigioco, è andato verso il quarto uomo a reclamare, ma questo significa voler condizionare il proseguo della gara. Cioè, domenica la stessa cosa, cioè noi dobbiamo mettere in condizione gli altri di stare tranquilli, perché non è giusto che un telespettatore sa più di quello che dirige in campo. Cioè, o facciamo come in Inghilterra, in Germania, che adesso per la cosa non gli danno tanta importanza, ma siccome anche noi qui la televisione, cioè bisogna che la domenica scorsa noi, io sono juventino, sì, Pogba non sappiamo ancora se il pallone è entrato o no, perché non ce l'ha fatto rivedere, cioè è in mano alle televisioni la partita. Gianni, va bene, allora su questo punto leggo una notizia, sull'altro punto ti faccio sentire Buffon. Ma su questo punto, sul secondo, perché siamo partiti da lì, no, dal secondo, quindi sul secondo punto, quello della TV, replay, eccetera, leggo questa notizia. La leggo in breve da Repubblica, ma l'avete letta, la potete trovare ovunque. Buffera dopo Elche Real 1-2, rigore di Ronaldo al 94esimo. Piqué del Barça twitta: vedo un film comico sul canale Liga. Arbeloa del Real Madrid replica: mi fa piacere, qualcuno è passato dal teatro al cinema. Quanto alla difesa, sentiamo Buffon. Indubbiamente ci sono anche degli errori anche di reparto, degli errori anche di singoli, perché alla fine ognuno di noi penso che qualcosina di meglio potesse fare in tutti i gol che abbiamo preso, compreso il sottoscritto. Mimmo, provincia di Caserta, buongiorno. Ciao Carlo, spero Ciao. Di poterti dare del tu. Ma come no? No, io in parte mi ha rubato l'intervento degli ascoltatori di prima, ma io volevo intervenire, intanto volevo chiedere scusa da juventino a tutti i tifosi del Chievo, perché grande Mimmo, grande. Un errore assurdo e inconcepibile. Mi sembri Sannino. Non saremo mai agli errori. Il problema è che Buffon non è più un portiere alla Juve, perché non sa giocare con i piedi, ormai non sa più nemmeno parare, perché quello non era un tiro, era un passaggio a Buffon e si è faticato letteralmente sul pallone, era in anticipo sull'attaccante e si è fatto bruciare, è assurdo. Volevo sapere il tuo parere, se è soltanto sostenuto dai giornali, ma da qualche anno. No, perché sono secondo d'accordo. Me quando dicono miracolo di Buffon è stato colpito, non ha parte il Milan. No, Mimmo, non sono d'accordo. Allora, Buffon è un giocatore che spesso ha affrontato partite in condizioni fisiche non accettabili. Si è esposto a questo tipo di così. Ma secondo me in questo momento è anche in discreta forma, ma si è esposto comunque a questo tipo di critiche. Rimane per me l'unico portiere italiano in grado di fare la differenza, se non altro per il carisma. Guarda cosa ti dico, Buffon è l'unico portiere italiano in grado di far paura agli attaccanti e comunque agli avversari. Poi gli anni passano per tutti, però per me resta il miglior portiere italiano e al mondo non è che ne vedo di così forti che possano essere così decisivi come Buffon. Vabbè, Borsa, dopo. Mario fa un brutto fallo, deve essere punito Mario, ma un altro fa un brutto fallo su di Mario, deve essere punito quello che ha fatto il fallo su di Mario. Tutti convocati. 800240024, ma naturalmente seguiteci anche su Twitter, non è che adesso avete scoperto che insomma la nuova programmazione di Tutti convocati più lungo dalle 14 alle 15:20 per la gioia di moltissimi. E questo programma vola, è vero? Non è che avete scoperto che sarà con me per Luigi Pardo, ma non è che non dovete smettere di seguirci su Twitter. @tutticonvocati, diventate follower. Faccio un po' di pubblicità, vado bene? C'è chi scrive: Igor, coppia da urlo secondo solo a Tevez Vucinic. Cioè io e Pardo secondi a Tevez Vucinic, non se ne parla nemmeno. Davanti a Tevez Vucinic, vorrete dire. Certo che voi siete strani. Il calcio e la politica sono le uniche due cose che non permettono agli italiani di parlare con il cervello, cioè di esprimersi con il cervello ma con la pancia. Ma come si fa a scrivere, rispetto all'intervento dell'ascoltatore di prima, questo qui altro che juventino è un napoletano, vergogna far prendere in giro la Juve dai tifosi del Napoli. Ma si vergogni lei a scrivere cose del genere. Quanto al discorso, ascoltatore che non si firma, quanto al discorso portieri, Buffon abbiati, va bene, Handanovic certamente uno dei migliori portieri del nostro campionato e del pianeta intero, su questo sono d'accordo. Però ragazzi, io Buffon avessi una squadra, magari la facciamo io e Pardo, magari la fondiamo una squadra con il vostro aiuto, facciamo un bel club molto largo, cosa dite? Bene, io Buffon lo prendo subito. A Balotelli fanno lo shampoo tutti, compreso El Shaarawy. Ah, penso che Mario abbia avuto una reazione un po' così, ma fa parte del suo carattere. Però sicuramente deve imparare un po' a controllarsi, perché facendo così comunque è chiaro che penalizza la squadra, ma penalizza anche se stesso. Avete sentito El Shaarawy? Anche lui dice a Balotelli: devi darti una calmata. Io invece dico: El Shaarawy deve darsi una svegliata, perché non mi sembra più il giocatore meraviglioso che era un anno fa nel girone d'andata dell'anno scorso. 800240024 e io vi aspetto qui per parlare di quello che volete, di sport ovviamente. Antonio, provincia di Venezia? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, come lei dice, Balotelli tra i primi 5 attaccanti al mondo. Sì. Io dico, se Balotelli tra i 5 al mondo, Francesco Totti vada a giocare su Marte, perché in terra non c'è nessun giocatore in grado di poter competere con lui. E a proposito, volevo dire, 37 anni al grande, solo unico capitano, tanti auguri, 22 anni da professionista, un primato di lealtà, professionalità, spirito di abnegazione, ed è rimasta l'unica grande bandiera del calcio italiano. Guardi Antonio, credo allora che sia doveroso, visto. Aspetti, stia lì. No, stia lì, non se ne vada. Io sono un grande tifoso di Francesco Totti, lo sono sempre stato. Io dico Francesco Totti nei primi 5 attaccanti al mondo, ora non lo so. Grande esempio di realtà, abnegazione, eccetera, eccetera. Sì, certamente anche Totti ha avuto i suoi raptus, e lei lo sa meglio di me, quindi magari sui superlativi lasciamo, glissiamo se vuole. Totti straordinario giocatore e Totti ancora straordinario protagonista di una Roma che finalmente riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Secondo me questo è quanto. Poi i primi 5 attaccanti al mondo, io Balotelli ce lo metto, Totti ora 37 anni magari no, ma questa è un'opinione personale, eh? Ma no, non capisco perché Balotelli lo supportate così malvolentieri. Io sinceramente non, questa è una cosa che non capisco. È una rockstar, è un personaggio, fa un sacco di sciocchezze in campo, ripeto per la milionesima volta, quello che fa fuori dal campo non mi importa e quindi quello lo levo già di principio. Io non so quanti giocatori di così grande talento abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, non lo so, Totti certamente, ma non so quanti altri, eh? Eppure vi sta sulle palle Balotelli e io non capisco perché. 800240024. È un piacere parlare con l'autore dell'intervista del giorno, cioè Carlo Laudisa, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Senti, mi racconti il retroscena di questa intervista perché se n'è molto discusso. Retroscena che ieri mattina Balotelli non stava facendo l'intervista. E questo secondo me può spiegare anche il perché Balotelli, anche se aveva deciso di chiedere scusa e comunque aveva questa idea per la testa, secondo me non era pronto mentalmente a affrontare una conferenza stampa. Ecco perché alla fine c'è stata questa scelta di queste due esclusive, una per la carta stampata e l'altra per la TV. Quindi io la leggo solo in questa maniera, non vedo altre chiavi di lettura che sicuramente qualcuno può aver fatto. Io vedo questa nuova intervista, a me per fortuna giornalisticamente non è la prima volta che intervisto Balotelli. L'ultima volta l'avevo fatto sempre qui a Milano quando era ancora al City e quando anche in quel caso c'era il problema delle squalifiche perché era iniziata la crisi con il Manchester City. Quindi sono situazioni in cui Mario è costretto a ricucire, le fa malvolentieri, diciamo anche il bello però, perché sì. Ieri l'intervista è iniziata alle ore 14 con un Balotelli furioso, perché appunto non voleva affrontare questa tortura, no? Mediatica. Non perché lui non volesse chiedere scusa, ma perché c'era questo aspetto. Invece poi l'abbiamo fatto parlare di calcio, l'abbiamo fatto parlare di se stesso e pian piano il sorriso è emerso, si è rasserenato con tutte le contraddizioni tipiche di Mario Balotelli, con la sua ingenuità solare che secondo me è associata a delle incredibili contorsioni mentali. Non so, il passaggio quello sul quando spiega il perché lui in campo si ferma, perché si autocensura, perché invece sa che dovrebbe ripartire. Secondo me in quella spiegazione ci sono tante luci su questi passaggi a vuoto, sì, questi passaggi a vuoto di concentrazione che ha ammesso di avere. Ma com'è il rapporto, onestamente, com'è il rapporto in questo momento tra lui e il Milan, al di là di questa facciata, quindi di un ambiente, quello rossonero, che lo ha criticato pubblicamente, per me questa è stata una grande novità, sì. Di questa insomma di questa reprimenda, autoreprimenda di Balotelli, che ha chiesto scusa a tutti eccetera eccetera, però al di là di tutto questo c'è chi dice che Balotelli e Raiola siano i veri padroni del Milan. Io questo non lo so e non lo credo, non credo. Ma il rapporto onestamente tra lui e il Milan com'è? Tra Mario Balotelli e il Milan? Eh? Sì. Sì, ieri pomeriggio c'è stato un nuovo vertice con Adriano Galliani, con Max Allegri, con Raiola, subito dopo l'intervista. Io farei una battuta, una volta c'era un libro, no? Speriamo che me la cavo, in questo caso è speriamo sia l'ultima, no? Sì. Io credo che la situazione sia questa, perché anche parlando un po' con chi gli vive intorno al Milan, percepisci questa questa doppia anima, cioè il Balotelli, bravo ragazzo, ingenuo, disponibile, per nulla montato. Lui non è con i compagni, ieri per esempio l'altro piccolo retroscena, gli è uscita la battuta su Esharau e Niang che devono tagliarsi i capelli, la cresta, sì. Poi finita l'intervista è tornato indietro, non mettetela, ovviamente l'abbiamo messa, ma è un gioco il suo, no? Cioè, io non vedo una negatività, non c'è il talento musone, presuntuoso, che potrebbe apparire all'immagine. Infatti ieri quando è stata fatta anche la domanda su questo, lui ha detto, ma chi dice che io sono montato, chi dice che io sono adesso un piantagrande, non mi conosceva quando avevo 15 anni, adesso io sono molto migliorato. Lui rivendica il fatto adesso di sentirsi un uomo, sì, rispetto sì, a 4 sì. anni fa. Probabilmente non lo è ancora, e poi c'è un altro aspetto, cioè quello contrattuale, ma questa sarebbe una domanda da fare a Raiola. È chiaro che questo difetto calcistico evidente di Balotelli, questa sua propensione al cartellino, alle squalifiche eccetera, ne diminuisce fatalmente il valore contrattuale, secondo me. Carlo, è una cosa che ti chiederò subito dopo il traffico, grazie. Tutti convocati. Allora, Carlo Laudisa, se non avesse questo difetto evidente agonistico, Balotelli varrebbe molto di più, e Raiola lo sa benissimo. Lo sa benissimo, e dobbiamo capirlo anche noi, che se non avesse avuto questo difetto non sarebbe arrivato al Milan per 20 milioni. Certo. Perché ricordiamo anche come è arrivato Balotelli, e non sarebbe andato al City per 26, a un'età in cui prometteva già tantissimo. E certamente l'incognita su cui stanno lavorando tutti, in primis lui, la sua famiglia. Adesso ieri in un'intervista si è dichiarato molto contento della relazione con Fanny, quindi può essere che sia anche una serenità che speriamo gli dia gli tolga quell'inquietudine che evidentemente lo rovina. È tutto un investimento, Milan compreso, per capire se Balotelli, da talento indiscusso ma molto discusso, diventi il fenomeno che ambisce ad essere, perché lui chiaramente si rapporta a Ronaldo, si rapporta a Ibra, anche ieri. Beh, ma Carlo, ma è giusto che faccia così, quanti giocatori, adesso al di là di tutto, quanti giocatori sono finiti di recente sulla copertina di Sports Illustrated, sono così gettonati dal pubblico americano? Piaccia o non piaccia, comunque è un fenomeno mondiale. Io non perché lo intervisti, ma come sono un balotelliano convinto. Sì, io anche me ne dicono di tutti i colori, ma non mi importa, allora, perché io continuo a pensarla così. Io faccio sempre questo tipo di osservazione, perché lo paragono a Ibrahimovic, no? Nel senso del talento. E dico sempre, Ibrahimovic l'abbiamo visto, è arrivato in Italia quando aveva 24 anni, già strutturato, e i primi 2 anni ha imparato, poi pian piano si è costruito. Mario ne ha 23 adesso, quindi, ed è già molto migliorato. L'augurio è che lui continui, che sia determinato, forte nel proseguire questo processo di crescita, indispensabile, anche perché quello che ha fatto contro il Napoli è deprecabile. Certo. È deprecabile, va detto, certo. Ribadito, non dimentichiamolo. E quindi se lui non capisce che deve, ed è quello che gli ha detto Allegri, ma quello che gli aveva detto Mancini, quello che gli diceva forse sbagliando nei modi Mourinho, ma sicuramente c'è un processo comunque di crescita. Prima ci parlavi di Totti, no? Noi non dimentico mai che gli sgarbi fatti a Totti, lo sgarbo fatto a Ronaldo in campo. Ieri Balotelli ha detto che lui contro gli avversari non se la prende più. Peccato, gli ho detto, però te la prendi con gli arbitri. Sì. Non hai risolto il problema. Si dice se non è zuppa e pan bagnato a Milano, no? È comunque qualcosa che lo penalizza. Il grande campione, da questo punto di vista, comunque Mario me... Balotelli è intelligente. Sì, no, anche secondo me è mica fesso. Al di là di quello che pensa il branco di invidiosi che continua a massacrarmi di messaggi SMS, perché l'invidia fa molto, quando vedi questo, un personaggio carismatico, molto forte, con dei limiti, perché i limiti sono umani e lo rendono simpatico, e però dagli al Balotelli, questo è uno degli sport nazionali prediletti, e io non capisco perché, per fortuna è italiano. Grazie Carlo Laudisa. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ma per fortuna è un giocatore italiano, io dico per fortuna che può giocare in nazionale. Voi fate un sacco di nomi, Rooney mezzo bollito secondo me, Wayne Rooney spero si riprenda perché è un giocatore che a me piaceva molto, ma mi sembra in netta crisi. Lewandowski, cioè voi prendete Lewandowski o Balotelli? Io Balotelli tutta la vita, lo preferisco anche a Van Persie, anche per ragioni anagrafiche. Stesso discorso per Ribéry. Tevez è un mio pupillo e dovrebbe fare lezione a Balotelli sull'atteggiamento in campo. Ci ha provato al City, non ci è riuscito. Agüero no, preferisco Balotelli ad Agüero. Messi, Ronaldo fuori categoria, va bene, mettiamola così, preferisco Ronaldo a Messi, sempre personalmente, però tant'è, ognuno ha le sue opinioni ed è giusto che se le tenga. Anche Massimiliano da Brescia ha le sue opinioni. Sì, ciao. Senta. Sì, no, intervengo, mi senti? Sì, come no. Sì, intervengo su Balotelli, dato che sono suo concittadino. Sì. Generalmente sono d'accordo con te, in questo caso non sono d'accordo né sul discorso dell'invidia, né sul modo di comportarsi di Balotelli riferito al campione. Io non capisco perché ci siano tanti giocatori dotati come lui, meno di lui, più di lui, eppure i problemi sono incentrati su di lui, e soprattutto non capisco perché, era un po' di tempo che volevo dirtelo, volevo chiamarti, sì. Perché tu scindi la vita di Balotelli in campo dalla vita fuori dicendo semplice, perché Balotelli, quello che semplice, fa perché Balotelli fa il giocatore di calcio, io rotocalchi rosa non li leggo per abitudine, e di quello che fa fuori dal campo non me ne importa nulla. No, ma non parlo dei rotocalchi rosa, quelli ma chi però se ne frega di quello che fa fuori dal campo. Nel nostro lavoro non possiamo dire, non so, per esempio io lavoro in un'azienda, non posso dire quello che faccio fuori dall'azienda chi se ne frega, non è vero, vengo valutato anche per quello, sì, ma vengo giudicato anche per quello, sono una brava persona, sì, se mi comporto bene, se mi comporto male. Certamente, però sono fatti privati, ma certo, sì. Ognuno però protegge la sua vita privata come vuole, e fuori dal posto di lavoro si comporta come crede. Non parlo della sua vita privata, dei figli, di cosa, allora? E quant'altro. Parlo del suo atteggiamento che ha in campo e in campo fuori d'accordo. Dal campo quando fa delle cappelle, non riferite alla vita privata. No, ho capito Massimiliano, io sono d'accordo, però ripeto, sul campo valutiamolo pure, e questo è lecito, anzi è doveroso, perché è l'aspetto di un giocatore estremamente forte che con questi atteggiamenti finisce per castrare un po' del suo talento, e questo secondo me è fastidioso, dà fastidio. Soprattutto per un tifoso della nazionale italiana, quale sono io e quale siete tutti voi, però è un talento purissimo. Quello che fa fuori dal campo, lo ripeto, a me non interessa. Allora, domenica c'è Capuano, dalle 17 alle 19 con lui ci sarà Pierluigi Pardo, ma noi ci sentiamo lunedì, prima puntata della nuova stagione. Franco Piantanelli, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ciao a tutti. Sarà un lungo pomeriggio di passione su Radio 24.